insomma, no? Ecco, la dimensione di coscienza proprio di una comunità politica organizzata con le implicazioni in termini di memoria, in termini di identità e con particolare riferimento al caso grosso che è quello della Germania. Insomma. Però in realtà non c'è solo quell'aspetto lì, la dimensione di massa, la qualità di massa della vita associata in età contemporanea ha dei risvolti che secondo me sono anche risvolti positivi, insomma. Credo che questo sia importante sottolinearlo. E i risvolti, ecco qua, i risvolti positivi sono, tra i risvolti positivi ci sono quelli relativi ai modi della partecipazione politica. Ora, io personalmente appartengo alla schiera di coloro che ritengono che il partito politico sia stato un'importante invenzione degli uomini, no? Sono dell'opinione anche oggi che i partiti politici vadano mantenuti il più possibile, insomma. E credo che i partiti politici siano giustamente uno strumento, ma più che uno strumento, un sistema di funzioni che rendono più complessa, ma anche per questo stesso motivo più precisa o più precisabile, più sofisticata la vita politica. Tutto questo per dire che a mio avviso anche le mutazioni che possono essere in corso tuttora qua e là nei diversi sistemi politici dei diversi paesi relativamente alle forme di partecipazione alla vita politica da parte dei soggetti legittimati, e sono mutazioni che possono anche degenerare, ma possono, o anzi dovrebbero, nell'intendimento insomma di tutti, invece condurre a più alti gradi di democrazia. Il partito sicuramente si inserisce in questo contesto. Paolo Pombeni è, a mio avviso, non mica solo mio, insomma, così, quello è tra gli studiosi che in Italia hanno meglio approfondito questo tema, e soprattutto direi, se posso fargli un complimento, lo posso fare perché mi permetto di essere stato il direttore di istituto quando lui cominciava a studiare, quindi sono più vecchio di lui, insomma, in qualche modo, eccetera, però devo dire che lui è tra quelli che sono riusciti a coniugare al meglio una prospettiva storica, di ricerca storica sulla nascita dei sistemi politici, dei sistemi di partito nei sistemi politici contemporanei, coniugare questa prospettiva storica con una molto seria conoscenza, della dimensione politologica che il partito politico presenta. Cioè, il partito politico è qualcosa che può essere studiato anche da un punto di vista rigorosamente non storico, no? Ma teoretico, come elemento costitutivo di una scienza politica contemporanea. Ecco, Pombeni riesce a mescolare queste due cose in modo molto gradevole, secondo me, e convincente. Non solo, ma poi, anzi, non solo, questo lo può fare soprattutto grazie al metodo che usa l'indagine storica, e che è il metodo comparato, che allora solo in questo modo qui si riesce. Io anche sono tributario di un grande maestro della storia, posso dire contemporanea, che è un tedesco, si chiama Otto Hinze, il quale nell'affermare la necessità di fare storia costituzionale come parte di una scienza della politica, diceva però che bisognava, premessa di questo era fare la considerazione di tipo comparato. Pombeni la fa con molta attenzione, non solo verso il mondo inglese, che è forse quello che predilige, ma anche verso il mondo tedesco, e quindi questo è molto importante. Lui insegna, credo che tu insegni ancora storia dei partiti, no? Dei movimenti politici alla Facoltà di Scienze Politiche di Bologna, da cui provengo anch'io, e affitto all'inizio, direi quando era giovane, insomma, la sua prima carriera scientifica era fatta occupandosi specificamente di un caso importante di organizzazione politica all'interno del cattolicesimo italiano, quello riferito a, in fondo, ad Ossetti, insomma, nel suo complesso ha studiato alcuni aspetti della cosa, e poi dopo, però, dopo aver fatto queste analisi di tipo molto specialistico su questo caso, ha proprio invece lasciato andare i suoi interessi verso tematiche di carattere più generale, più largo, appunto come dicevo prima, metà strada fra, spero che questo non si offenda, fra la storia e la scienza della politica. Io ho qui davanti un libro che mi capitava di avere su in studio, perché ci ho scritto proprio anch'io in un convegno organizzato da lui, poi ha prodotto il suo libro, è intitolato La trasformazione politica nell'Europa liberale. Ecco, questo direi che mi pare che ancora oggi possa essere considerato il cuore problematico, perché si tratta dell'Europa, quindi si tratta di una visione larga e non stretta. Liberale non vuol dire no, una connotazione di partito, ma significa invece la dimensione costituzionalistica, insomma, quindi la dimensione partecipativa, eccetera, eccetera, che dicevo prima. E la trasformazione politica, questo mi permetto di dirlo, e così chiudo questa presentazione, era un termine, quello della trasformazione politica, carissimo anche a un nostro comune amico, e possiamo dire anche maestro per certi aspetti, che era Roberto Ruffilli, che con noi stava anche lui a Bologna. Credo che Paolo non abbia nessuna niente da dire a collegare anche queste problematiche qui con l'insegnamento. Scusami questa introduzione, che però mi fa piacere perché così ci conosciamo meglio. Grazie, io ringrazio Pier Schiede, i complimenti ovviamente di questi ricordi, che sono ricordi molto belli di questi anni molto intensi in cui io ho imparato tanto da Schiera, da Ruffilli. Ovviamente nei miei confronti la parola maestro per Ruffilli ha un significato molto, molto profondo. I maestri sono poi quelli che si scoprono sempre dopo, no? Quando insegnano si scoprono meno, secondo me, perché è sempre complicato, i rapporti sono sempre... Non che bisogna morire. No, anzi, sarebbe stato meglio di no, ma si scoprono dopo col tempo, voglio dire, ci vuole un po' di sedimentazione, l'abbiamo già scoperto prima. Ma lo dico per introdurre, no, non banalmente, questo tema dei partiti politici come momento di organizzazione della società di massa, perché credo che se oggi si può dire qualche cosa di nuovo rispetto a quello che è, diciamo, la vulgata corrente, che forse anche voi avete sentito tante volte proporre, il merito va a questa lunga tradizione. Nessuno di noi è inventore di nulla, ciascuno di noi è una piccola pietra che rotola a formare la valanga, e di questa tradizione che viene da lontano, che ha avuto in questi anni bolognesi un momento veramente importante e fondante. Perché? Perché lentamente, e questo è il problema a cui accennava prima Schiera della trasformazione dell'Europa liberale, lentamente siamo riusciti a vedere la storia contemporanea in una prospettiva rovesciata. Noi abbiamo sempre visto, quando io ho cominciato a fare l'assistente appunto del professor Ruffilli, e abbiamo cominciato a insegnare, a fare gli esami, a fare queste cose che si fanno fare ai giovani, la storia contemporanea sembrava il Novecento era la vera storia e l'Ottocento era tutta una grande premessa al Novecento, no? Allora c'era l'embrione della società di massa, l'embrione del partito, l'embrione della Costituzione, l'embrione di questo, e poi alla fine arrivava la completezza di questo, e poi magari, diciamo, i più arditi si spingevano al discorso, e poi alla decadenza, alla fine, alla maturità, al compimento. Ecco, io credo che noi oggi abbiamo superato questo tipo di approccio, che è un approccio un po' fuorviante. Intanto perché l'Ottocento non è affatto l'embrione del Novecento, ma è un grande secolo compiuto, che anzi è stato semmai il compimento del Settecento, se posso usare un rovesciamento della metafora, che vale quello che valgono questi rovesciamenti delle metafore, piuttosto che non un embrione del Novecento. E il Novecento a sua volta ha scontato il problema di non aver fatto compiutamente i conti, diciamo così, con la teoria costituzionale dell'Ottocento, rimanendo impigliato in questa grande costruzione che era stata pensata per un'età socialmente diversa e che invece doveva venire applicata a un mondo che aveva cambiato il suo rapporto. Cioè, mentre l'Ottocento, scusate mi esprimo per rozzissimi idealtipi, ma solo per farci capire, mentre l'Ottocento era il secolo della grande trasformazione politica, cioè come, diciamo, rendere compiuta questo governo costituzionale che era stato l'aspirazione della rivoluzione illuminista, il Novecento, e però questa, diciamo, questa trasformazione riposava su, non so se su una società, ma certo su una immagine della società abbastanza fissa e compiuta, in cui si credeva che, diciamo, il progresso fosse arrivato in qualche modo al suo acme e il problema fondamentale fosse quello di moderare il progresso, di metterci un po' di ordine in questo progresso. Il Novecento è un secolo che si è trovato con questo tipo di teoria costituzionale, che per grandi linee è quella che tuttora è vigente. Naturalmente non lo dico per presentarla sì che semplicemente come una teoria obsoleta, lo dico per spiegare che questa teoria ha in sé una grande forza se è riuscita ad arrivare in qualche modo intatta fino a noi, e però questa teoria, che è stata in gran parte pensata in rapporto a questa società, diciamo, di progresso moderato, in cui il progresso era in qualche modo finito, si è trovata a misurarsi con un fenomeno completamente diverso, che è stata questa grande, chiamiamola accelerazione sociale, chiamiamola così se ci fa piacere, tanto i termini sono poi tutti equivalenti, che si è imposta a partire soprattutto dalla massificazione introdotta dalla prima guerra mondiale, visto che voi avete nel programma molto opportunamente una lezione che riguarda questo momento, che ovviamente è un momento chiave, è un momento fondamentale. La, diciamo, teoria politica non era preparata a questo, o era preparata soltanto in termini relativamente accurati a questo tipo di grande trasformazione, e quindi si è trovata a fare i conti con questo evento in attesa. I partiti contemporanei, così come noi li conosciamo, sono in gran parte i figli di questa contraddizione, questa grande contraddizione che ha percorso il passaggio dall'Ottocento al Novecento. I partiti sono mossi, diciamo, si sono sviluppati all'inizio come la organizzazione dell'opinione pubblica, cioè come una funzione della Costituzione illuminista, che era una Costituzione, diciamo così, dialettica, in cui le parti si dovevano confrontare, la verità nasceva in qualche modo da un confronto libero, e quindi sono stati accolti semplicemente come forme pure di discussione. Questo teorico tedesco famoso, che ha scritto il libro che è diventato in qualche modo canonico in Europa nell'Ottocento, che si chiama Johann Caspar Blumsli, aveva appunto teorizzato questo. Sono tanti tipi di partiti, ma l'unico partito accettabile è il partito puro, il partito di opinione che sta dentro la Costituzione. Poi ci sono delle cose strane, che sono dei partiti che si fondano su ragioni di divisione dell'universo politico, come sono i partiti di tipo confessionale, come sono i partiti di classe, come sono i partiti regionali. Blumsli era uno svizzero, no? E noi, la Svizzera è una delle tante cose che noi espugniamo dal nostro universo, non per cattiveria, perché si fa fatica a seguire tutto, però la Svizzera sarebbe un caso importante da tanti punti di vista da vedere, che naturalmente aveva avuto un problema di costituzione, vogliamo chiamarla su base etnica, abbastanza forte. Quindi Blumsli conosceva anche questo tipo di esperienza, e tutto questo gli pareva estraneo, gli pareva che non funzionasse, che fosse un meccanismo che andava espunto dalla Costituzione. E questa era stata la teoria che in qualche modo, diciamo così, rotolando, era arrivata fino alle soglie del Novecento, quando relativamente, per la grande opinione pubblica relativamente, si presentò in tutta la sua forza un problema politicamente inatteso. E cioè, ma questi partiti di opinione, che sono figli della Costituzione liberale, non sono i partiti dominanti. I partiti forti, i partiti grandi, sono inaspettatamente quei famosi partiti operai che stavano al di fuori della Costituzione. Si potrebbe aggiungere, e anche i partiti cattolici, ma i partiti cattolici, vedete, facevano meno specie, perché sembravano semplicemente, come dire, una specie di appendice di manovra delle chiese, e nessun costituzionalista ottocentesco, nessun costituzionalista europeo aveva problemi a riconoscere che le chiese erano grandi forme istituzionali e che quindi, se si mettevano in campo, erano in grado di mobilitare forze notevoli. C'era naturalmente il problema di come impedire alle chiese di fare questo tipo di lavoro, c'era il problema di come delegittimare le chiese in questa struttura, ma sul fatto che le chiese facessero questo c'era una specie di consenso, era una cosa considerata in qualche modo naturale. I partiti operai invece facevano problema, perché i partiti operai erano una grande forza sul terreno della politica che non era figlia di nessuno, cioè non aveva nessun tipo di legittimazione, diciamo così, di un potere originario, come avrebbero amato dire i costituzionalisti, cioè di una istituzione tipo appunto una chiesa, uno Stato. Ciò nonostante questi partiti, e voi pensate al grande esempio della socialdemocrazia tedesca che comincia a essere studiata in Europa, che comincia a diffondersi, comincia ad essere un punto di riferimento forte, erano dei partiti che avevano potuto resistere perfino al grande Bismarck. Neanche il grande Bismarck, che pure aveva in mano una cosa potentissima, come era la struttura amministrativa, ancora prima che costituzionale, prussiana da un lato e dell'impero tedesco dall'altro, era riuscito in questa lotta mortale che era stata ingaggiata senza risparmio di mezzi, ma ricordo, questo è un dato importante che in genere si sottolinea, con un rispetto fondamentale della categoria dello Stato di diritto che era stata introdotta dal pensiero settecentesco, cioè i socialdemocratici tedeschi avevano potuto vincere perché Bismarck non era Saddam Hussein, Bismarck era un signore che aveva delle leggi e le leggi andavano in qualche modo rispettate e quindi i parlamentari non si potevano toccare e quindi le società, l'associazionismo era in qualche modo ammesso, era vietato l'associazionismo liberale, socialdemocratico, ma poi i socialdemocratici fondavano delle associazioni corali o delle associazioni ginni che, siccome c'era una legge che diceva che queste si potevano fare, la polizia doveva arrestarsi a fronte di queste cose, anche se c'era il fumus che queste fossero delle associazioni che in qualche modo celavano i socialdemocratici. Finché non c'era la prova non si poteva fare. Noi salfiamo questo passaggio, che invece è un passaggio importante, no? Perché in altro contesto la battaglia sarebbe stata molto diversa e non è un discorso puramente teorico. Voi sapete benissimo che dove la socialdemocrazia ha dovuto svilupparsi in uno Stato che non era uno Stato di diritto secondo i grandi canoni del costituzionalismo illuminista, cioè nel caso dell'impero russo, ovviamente noi abbiamo avuto alla fine una forma di socialdemocrazia piuttosto diversa e organizzata in altro modo, organizzata su questo canone famoso del partito dell'avanguardia, dei rivoluzionari di professione, eccetera. Comunque, certamente, diciamo, nella prima fase questo fenomeno aveva colpito poco, e aveva colpito poco perché i socialdemocratici erano pochi, ma a partire dalle elezioni del 1904 in Germania i socialdemocratici diventano tanti, diventano una forza potente e non dimentichiamo, in prospettiva nel 1912 diventeranno il partito più grande rappresentato al Reichstag. E questo fenomeno induce un problema. Induce un problema perché rovescia tutti i canoni tradizionali del costituzionalismo che pensava di non dover fare i conti con forze organizzate al di fuori dell'ambito statuale. L'origine è nella famosa formuletta delle leggi dei Chapelier della rivoluzione francese: fra lo Stato e il cittadino non c'è nulla. La posizione dell'antico regime significa che la nuova organizzazione del potere è fatta da un potere politico, l'espressione della rappresentanza, di quello che il principio monarchico, di quello che voi non importa, e una serie di cittadini individui, no? Non possono esserci soggetti collettivi che stanno nella politica. Questa è la grande lezione che l'illuminismo, mi perdonerete questa generalizzazione, ovviamente si dovrebbe dire, ci sono tanti tipi di illuminismo, ci sono tante sfumature, tante nuance evidentemente, ma insomma in senso generale quello che chiamiamo la cultura diffusa dell'illuminismo, e sarebbe più corretto dire dell'illuminismo e del grande sviluppo della teoria amministrativa della rivoluzione della fine del Settecento, avevano introdotto più o meno in generale in tutta Europa. Il Partito Socialdemocratico Tedesco e altri partiti socialisti che in forma minore, meno evoluta, a volte in forma diciamo, più naif, portavano in Europa, era la testimonianza che non era vero, la società della politica non era organizzata in un rapporto di tipo individuale. Ovviamente le categorie che la scienza politica del periodo aveva per interpretare questo erano, diciamo, grossolanamente di tre tipi. Da un lato c'è la teoria che si potrebbe emblematizzare nell'apporto di Mosca e di Pareto, cioè del grande elitismo liberale, ma in fondo si tratta di fenomeni antropologici, ci sono degli uomini superiori che possono vivere come individui, ci sono degli uomini inferiori che come individui non sono capaci di sopravvivere, c'è il filosofo che pensa con la sua testa e c'è l'uomo di fede, c'è quello della Chiesa, ricordate che Hegel stesso aveva fatto scalini nella conoscenza in cui la Chiesa stava sotto la filosofia, che hanno bisogno di fedi. Siccome siamo in un tempo in cui c'è la secolarizzazione, diremmo noi oggi, c'è una forma di laicizzazione, questa forma di secolarizzazione politica, questa specie di scuola elementare della politica, che sono i partiti, una forma in fondo per categorie nuove, per nuovi protagonisti dello sviluppo politico, che possono essere inseriti nell'universo del politico soltanto attraverso questa forma di apprendistato. Poi si poteva caricare questa visione di una valenza un po' più positiva, come nonostante tutto fa Pareto, secondo me, no? Che cerca di dire, sai, la circolazione delle elite, si sale per scalini, quindi è vero, è una cosa inferiore, ma non ci si può aspettare che il primo scalino non sia uno scalino di questo tipo. Poi questi pian pianino diventeranno più grandi e diventeranno individualisti come noi. Oppure si poteva guardare da un punto di vista un po' più negativo, come secondo me fa Mosca, che il discorso di dire, ma insomma, l'uomo di scienza non può guardare con simpatia il sopravvivere della superstizione, non lo può guardare nell'ambito, diciamo così, filosofico, non lo può guardare neanche nell'ambito politico. È una grande forma di abbindolamento collettivo. E questa è una grande visione che è rimasta, percorsa, si percorre molto a lungo, si ripropone addirittura fino al secondo dopoguerra, no? Fino al secondo dopoguerra rimarrà questa idea che in fondo la democrazia di massa è un modo per impedire il governo dei migliori, il governo delle elite vere. Perché sapete, tutti quelli che perdono si considerano sempre l'elite vera, perché è una forma di autogratificazione fin troppo banale nel nostro paese stesso, ma in tutti i paesi di questo mondo. Discorsi di perché sono tramontate le elite liberali, perché sono tramontate le elite liberali democratiche, eccetera, eccetera. È perché questa società di massa ingiusta ha travolto la possibilità per i migliori di essere loro i capi, diffondendo una teoria, diciamo così, un po' più grossolana, un po' più per bocche buone che vogliono le tinte forti. Allora, ci sono quelli che sono più disponibili a prostituirsi a questo tipo di a questo modo di fare politica, ci sono quelli che proprio non gliela fanno e pagano il loro splendido isolamento. Questo è un grande canone interpretativo che ritorna in continuazione, che trovate ancora oggi all'interno della grande polemica storica. Della grande polemica storica contro il partito politico, che cerca e che ha, vogliamo vedere, un epigono forte, che è un epigono forte in De Gaulle. No. La teoria gollista è una teoria che si ancora a questa antica prospettiva, che in Francia è stata più vivace che in altri paesi, e che è andata in questa direzione. De Gaulle non è soltanto il fondatore nel 1958 di una proposta, diciamo così, di accentramento nel presidenzialismo di una serie di funzioni, il che di per sé non era in contrasto con il sistema politico fondato sui partiti. L'America ha un tipo di presidenzialismo per certi versi anche più accentuato di quello della Francia gollista, ciò nonostante è abbastanza ampiamente, e era ancora di più nel passato, un sistema politico fortemente legittimato dai partiti o da un'organizzazione di tipo partitico. De Gaulle ha fondato invece questo presidenzialismo su un giudizio negativo sui partiti e su una ipotesi di governo dei tecnici che è stata, soprattutto nei primi anni dell'esperimento gollista, molto forte e molto accentuata. Poi la storia anche lì ha preso un po' il sopravvento e diciamo, alla fine anche De Gaulle ha limitato un pochino più questo. Però se voi vedete i primi governi De Gaulle, 58, 59, 60, voi vedrete che sono governi accuratamente scelti con l'ipotesi di poca gente di partito e tanti tecnici. La stessa Costituzione gollista è una Costituzione scritta da alcuni tecnici, è il trionfo di questo, che rappresenta una grande tradizione, un momento, per citare Minghetti, per dire un autore non sospetto di gollismo, che diceva, ma insomma, la politica diventerà un giorno una cosa tecnica e quando diventerà una cosa tecnica si chiuderà questo ambito dei partiti. Questo è un tipo di approccio che indubbiamente ha avuto un percorso lungo ed è arrivato fino a noi. Il secondo tipo di approccio è un approccio che muove invece da un problema leggermente diverso, che è il problema dell'evoluzione dello Stato rappresentativo nel momento in cui la rappresentanza deve nascere, secondo una celebre formula degli inglesi, non dai cervelli ma dai numeri. Cioè nel momento in cui, avendosi un allargamento progressivo dell'elettorato, non era più ad essere rappresentata l'opinione, ma era semplicemente, adesso rappresentata come, dice una volta, se non ricordo male, una media statistica, la quale ovviamente ha una capacità politica relativa. Però diventava un problema difficile da, come dire, da manipolare, perché sul principio che comunque in uno Stato complesso come quello contemporaneo, che chiede così tanta partecipazione ai suoi cittadini, dal servizio militare, che è la cosa più facilmente immaginabile, che è un'invenzione dei tempi moderni, nel senso della leva generalizzata, eccetera, eccetera, ovviamente alle tasse, e alle tasse non più fatte nel senso, perché guardate, molte volte si dice le tasse, sì, ma il problema delle tasse non è tanto il problema delle tasse in sé, è che le tasse non sono più fatte semplicemente nei termini di una sovvenzione, consentitemi la battuta, alle spese dello Stato, ma sono fatte come uno strumento di redistribuzione della ricchezza all'interno della società. Cioè, non sono fatte per pagare le spese militari dello Stato e le rappresentanze degli ambasciatori, sono fatte per pagare quello che noi chiamiamo oggi lo Stato sociale. Allora il problema diventa molto più complicato, perché naturalmente suppone una trasformazione della questione fiscale. Pier Rosan Valoni, in un libro che secondo me è molto bello, che non riesco a far tradurre in italiano, che è uscito recentemente, che si chiama Lo Stato in Francia, ha attirato l'attenzione degli studiosi su questo aspetto dello Stato finanziario contemporaneo, facendo vedere come la legge finanziaria francese, il budget francese, sia passato dal 1800 ad oggi da qualche cosa, se non ricordo male, nel 1800 erano 4 capitoli e adesso sono, mi pare, 400 e tanti, no? Qualsiasi grande come il bilancio dello Stato italiano. Ecco, questa trasformazione non è una trasformazione, diciamo, della soltanto numerica, no? Cioè, una volta amministravano poche cose, adesso ne amministrano tante, no? È una grande trasformazione qualitativa, cioè bilancio dello Stato sono diventate tante di quelle voci che concettualmente non lo erano mai state. Questa è una grande rivoluzione, e questa è la rivoluzione che chiede un approccio di tipo diverso al problema di chi, di quel Parlamento che è stato inventato come chi decide sulle tasse. Però non più il Parlamento che decide sulle tasse, usiamo la semplificazione proprio più banale possibile, per fare la difesa, che è il primo momento di struttura dello Stato, di identificazione dello Stato, uno Stato che non si pone il problema di difendersi se qualcuno vuole negarlo come tale, ovviamente non esiste, no? Ma è un problema più complicato di distribuzione della ricchezza, eccetera. Allora, tutti devono entrare in questo, ma se tutti devono entrare in questo, crolla quello che era uno dei presupposti fondamentali del sistema liberale, che è l'idea che la rappresentanza è fatta da un corpo di liberi ed eguali, in cui queste due parole hanno un senso forte. Libero è colui che può decidere le sue cose senza costrizioni, eguale nel senso che ciascuno voto è veramente potenzialmente, concettualmente, strutturalmente eguale a quello degli altri componenti della comunità politica. Questo pensiero costituzionale aveva la sua, diciamo, quintessenza nella traslazione dell'esperienza dell'antichità classica, quando era stata grande Roma e Atene. Roma e Atene erano state grandi quando erano state piccole repubbliche di liberi ed eguali. Questa famosa idea del piccolo contadino che nel tempo stesso soldato, che ci sono tutte le ricerche, non dovete dimenticare, questa è la grande epoca della riscoperta della storia romana, di Mommsen, di Gibbon, eccetera, eccetera. No? Allora, questa era l'ideale da riproporre all'interno del mondo moderno, in cui il borghese sembrava la riproposizione di quell'antico archetipo del libero ed eguale. Il borghese, che era appunto l'uomo libero, nel senso che era costruttore della sua propria fortuna ed era eguale perché aveva le stesse potenzialità, le stesse capacità. I sistemi elettorali europei sono stati pensati come dei sistemi ristretti a queste categorie. Non è un caso che il sistema britannico, che è sempre stato considerato da tutti il più avanzato, sia il più retrogrado sul piano numerico. Gli inglesi non hanno avuto suffragio universale che nel 1918. L'Italia l'ha avuto nel 1913, la Francia e la Germania l'hanno avuto nel 1870, la Francia anche nel 1848, seppure in un momento, insomma, di transizione in qualche modo, no? Ma perché il sistema britannico resisteva così tanto? E d'altronde era un sistema, non possiamo dire che fosse un sistema, diciamo, antidemocratico, perché nel sistema britannico l'idea è appunto quella che se voi ammettete all'elettorato quelli che loro chiamavano il residuo, no? Cioè le persone che restano dopo aver ammesso al voto tutti quelli che sono rispettabili, come dicevano loro, cioè sono sufficientemente parte di questo sistema, voi avete un sistema che lo distrugge. Voi avete un sistema che si distrugge, perché il voto in questa ideologia non è un diritto, il voto è un dovere, ed è un dovere il cui esercizio viene consentito a chi è già sostanzialmente un supporter, se mi passate questo termine, del sistema costituzionale in cui si vota. Si dice spesso, Bismarck invece non aveva questi problemi perché era un volpone, sapeva che le masse erano conservatrici, eccetera, eccetera. Guardate, anche questa è una leggenda. Cioè, Bismarck usa tante volte questo argomento, perché ovviamente Bismarck, come tutti gli uomini politici, non parlava per il futuro, parlava per convincere i suoi avversari, e siccome i suoi avversari più duri erano i conservatori più di lui, che non volevano assolutamente andare a questa direzione del suffragio universale, usava argomenti atti a smontare la loro paura, e quindi diceva no, il suffragio universale viene da noi perché vengono masse di contadini che noi manovriamo, vengono masse dalle chiese che sono masse di tipo conservatore, eccetera, eccetera. Ma la ragione fondamentale che non impedisce a Bismarck l'introduzione del suffragio universale è che Bismarck non aveva un'idea di costituzione borghese, non gliene fregava niente di questo discorso di liberi ed uguali, aveva un problema diverso, aveva un problema di, possiamo dire, legittimazione manipolatoria di una realtà che non traeva origine dal voto popolare. E quindi a lui non gliene fregava niente che questa cosa, che era una cosa totalmente strumentale, fosse data, diciamo così, a cani e porci, perché non era mica quella che fondava lo Stato. Bismarck fa introdurre con grande forza e fa rispettare anche, diciamo, a suo scapito il principio monarchico, che vuol dire che lo Stato trae la sua legittimità, trae la sua origine da tutto tranne che dalla rappresentanza popolare. Bismarck non aveva questo genere di problemi, e questo era il grande problema. Ma quelli che avevano questo problema avevano il problema di come si può fare democrazia, cioè governo di liberi ed uguali, in una società in cui, insomma, lo vedevano tutti, la massa degli elettori non era assolutamente fatta da liberi ed uguali. La massa degli elettori assomigliava terribilmente a quelle masse che nelle antiche repubbliche romana e ateniese avevano distrutto la repubblica, quelli che volevano panem et circenses, quindi questo grande incubo, a quelle masse terribili che in America, che era l'esempio contemporaneo che si affacciava solamente di tutti, avevano distrutto la grande America, diciamo così, che era questa specie di Eldorado dell'illuminismo che aveva visto Tocqueville, la grande America dei grandi proprietari della Virginia e dei grandi uomini di cultura del nord, no, un'America di elite, e che adesso era un'America distrutta da masse e masse di immigrati, questi irlandesi e tedeschi che sotto la spinta della grande fame europea erano arrivati là, che non capivano niente, non sapevano la lingua, eccetera, eppure, poiché questo principio illuministico astratto aveva detto un uomo un voto, adesso votavano e avevano introdotto quella che sembrava allora la peggior forma di corruzione possibile ed immaginabile, cioè il voto dato e venduto. No. E allora qui nasce la seconda grande interpretazione, quella che in qualche modo si incentra nell'esperienza di Ostrogoski e nel suo famoso libro che esce nel 1902 sulla democrazia dei partiti politici. I partiti in questo contesto di grandi numeri di democrazia di massa non possono che essere macchine politiche, cioè non sono altro che strumenti per la raccolta di un voto, come potremmo dire, di un voto squalificato, di un voto che non è capace di esprimersi se non è comperato. E quindi i partiti sono un qualcosa di negativo. Sapete che Ostrogoski finirà la sua perorazione con questa famosa formula: abbasso il partito, viva la Lega. Non credo che Ostrogoski avesse in mente Bossi, però il fenomeno è molto simile, e il fenomeno è uguale, cioè basta questa idea del partito come raccolta del voto attorno a una presunta teoria generale, e invece viva l'organizzazione. Se il partito deve essere un'organizzazione contingente, viva l'organizzazione che raccoglie in contingenza dei voti e si scioglie dopo aver ottenuto i suoi obiettivi immediati. Di nuovo, questa è un'altra grande filone che in qualche modo continuamente si ripropone all'interno della società occidentale. Il terzo filone, che è un filone altrettanto importante, è il filone che invece deriva dalla, secondo una famosa lezione di un grande storico costituzionale tedesco, che è Theodor Schieder, dalla prima teorizzazione liberale sul partito. Il partito è lo strumento di creazione di quella che, con una battuta, potremmo chiamare la verità filosofica in politica. Cioè, noi abbiamo bisogno, cioè gli uomini che hanno capito dove andrà la storia, naturalmente si uniscono insieme e cercano di esercitare un'azione per far andare la storia in questa direzione. Questa poi è la grande esperienza che appunto avevano avuto, non dimentichiamo quest'altra grande origine che ha ricordato Otto Hinze dei partiti politici, la grande lotta nelle corti illuminate fra il partito della riforma e il partito del blocco dell'antico regime, no? Questa riforma, che è stata una grande riforma filosofica in primis, oltre che una grande riforma giuridica, era stata un'organizzazione di tutte queste forze intellettuali che volevano la riforma a pro della trasformazione politica e contro questa. Quindi questa grande tradizione di organizzazione, che è una tradizione elitista ovviamente, no? Che non è un'organizzazione delle masse, ma era un'organizzazione della cultura pro o contro la trasformazione politica, doveva portare allo sviluppo più o meno dialettico dell'opinione, sfociare nella grande costituzione del partito. Marx non è che una persona inserita in questa tradizione, che naturalmente pensa di essere il rappresentante del vero partito che ha capito la legge della storia. Superate le fasi precedenti, adesso c'è una nuova legge della storia e bisogna fare quel partito delle persone che hanno capito che la storia marcia verso il comunismo, il socialismo, adesso lì possiamo sbizzarrirci all'interno di questa interpretazione. E questa era una delle componenti forti della tradizione che avevano fondato la crescita della socialdemocrazia tedesca e la presenza all'interno del partito di un partito come grande forza di elaborazione intellettuale. Il primo compito del partito è elaborare una teoria politica del futuro, no? Mentre nei partiti di tipo che abbiamo visto di tipo precedente non c'è questa ipotesi dell'elaborazione della teoria, no? Naturalmente questa aspirazione si era scontrata contro una dura realtà. La socialdemocrazia non è certo stata forte e non è certo cresciuta perché aveva, possiamo dire, fondato una scuola filosofica di massa. Era stata forte, era cresciuta perché si era inserita su due cose che noi oggi vediamo meglio di quanto non vedessimo in passato, perché la storia sociale ha fatto grandi passi su questo terreno. Da un lato sul persistere molto forte di tradizioni organizzative all'interno di una classe operaia che non viene più interpretata secondo la vecchia immagine di contadini sradicati dalle loro terre, battuti in contesti industriali produttivi in cui questi qui erano diventati carne da macello e non sapevano niente, perché al massimo c'è un aspetto di grande rivoluzione spartachista che dava origine al partito, in cui più accuratamente si vede che la grande industria moderna nasce dalla trasformazione dell'artigianato specializzato, che lentamente perde il suo statuto di autonomia, viene inquadrato all'interno di questa realtà produttiva, ma è l'inquadramento di elite che sono quello che sono perché sono detentori di un sapere tecnico, piccolino se volete, ma importante, con tutta una sua tradizione sociale e politica di forme di organizzazione, no? Un altro nostro collega Carlo Poni sta facendo delle ricerche per vedere come nella Bologna del 600 i conciatori, i ciabattini eccetera, eccetera avessero tutta una struttura ramificata di mutuo sostegno, di interrelazione, di governo della compera del materiale all'ingrosso, di ridistribuzione all'interno della corporazione eccetera eccetera. Cioè queste forme, diciamo, precapitalistiche di organizzazione che sono importanti, che naturalmente quando l'avanzare del capitalismo distrugge queste individualità produttive, però rimangono come grande tradizione politica, e quindi le socialdemocrazie, i socialismi nascono su questa classe operaia che è in gran parte fatta di queste elite, perché si introduca nei grandi paesi europei quello che noi chiamiamo l'operaio massa, dovremmo aspettare un po' di più, cioè questa cosa risale, diciamo, agli anni 90 come inizio del fenomeno dell'Ottocento e ai primi anni del Novecento, quando però le grandi organizzazioni di partito socialista si erano in qualche modo già impiantate. Quando gli intellettuali realizzano questo, realizzano immediatamente anche l'esistenza di un altro fenomeno, cioè questi corpi che sono nati come corpi per il pensiero politico sono diventati dei corpi per la gestione di interessi, diremmo noi oggi, che non sono governati dall'idea della libera conflittualità delle intelligenze per mettere a capo quelli che sono più acuti nell'interpretare il futuro. E questo genera un piccolo shock negli intellettuali che fanno questo lavoro. Sapete che questo shock è diventato famoso perché uno di questi intellettuali, si chiamava Robert Michels, scrive nel 1912 un famoso libro, dopo averne scritto un altro sulla che è importante perché spiega bene questa psicologia, sul fatto che non è vero che il Partito Socialista sia un partito operaio, perché lui è andato a studiare il caso della federazione di Rimini e di un'altra federazione del Partito Socialista Italiano e ha visto che i capi sono quasi tutti dei borghesi, e quindi ha, diciamo, messo in discussione la prima verità storica del marxismo, per l'idea che il movimento nascesse dalla classe, e poi mette in discussione la seconda verità storica del marxismo, che ed è l'idea che la classe fosse diretta sulla base di un principio, diciamo così, interno alla gestione del futuro della classe. E invece la classe era gestita, come tutte le altre società politiche, dal principio della organizzazione del potere, che lui, diciamo, scioccato dall'idea che questa organizzazione fosse un po' fissa, chiama la legge ferrea dell'oligarchia. In realtà quelli che comandano non vengono cambiati, e non vengono cambiati perché la gente non si chiede drammaticamente ma questi sapranno davvero come si fa il socialismo, perché invece dominano altri tipi di regola. Michels ci aggiunge, diciamo così, una interpretazione malevola. Non è che la gente lo sa, ma non gliene frega niente. La gente non lo sa. Questi capi tengono all'oscuro la gente della verità profonda, che loro non sanno come si fa il socialismo nel futuro. Perché se la gente lo sapesse, la gente li manderebbe via. E quindi c'è questa interpretazione complottistica della politica, che è un altro dei grandi, secondo me, dei grandi retaggi che sono stati lasciati alla scienza politica anche contemporanea, in cui qualsiasi fenomeno viene sempre spiegato, anziché prenderne conto, come Weber aveva poi rimproverato a Michels, la rottura fra Weber e Michels nasce proprio su questo, perché a questo punto Weber dice a Michels, ma insomma, noi dobbiamo interpretare la realtà così com'è, no? Non dobbiamo continuamente andare a cercare cosa sarebbe il meglio, no? In realtà, per molti versi, è prevalso, diciamo così, la linea di Michels. Noi vogliamo leggere una realtà come non dovrebbe essere, dobbiamo immaginare che se le cose non vanno come pensiamo noi, non è perché ci sono altre regole che le governano, ma è sicuramente perché c'è un complotto, che se non ci fosse il complotto le cose non andrebbero in questa maniera. E quindi anche questa linea di lettura ha finito per essere una linea di lettura svalutativa dell'esperienza del partito, una lettura svalutativa forte, perché ha detto, ma il partito poi alla fine, siccome deve avere delle elite, siccome queste elite per conservarsi non diventano altro, diciamo, che una paratia fra i militanti e la verità, il partito non sarà mai una struttura capace di produrre democrazia. E guardate, il combinarsi di questi tre filoni ha in qualche modo prodotto nella grande fase che noi chiamiamo per convenzione l'età dei totalitarismi una reale e forte eclisse dei partiti politici, una reale e forte eclisse dei partiti politici che è stata, diciamo, generale quasi dovunque, perché i partiti sono stati visti appunto come le strutture che, diciamo, avevano da un lato indebolito la Costituzione liberale, impedendo questa preminenza dello Stato, impedendo questa sovranità, come l'aveva detto Carl Schmitt, questa unità del politico, e dall'altro lato sono stati gli introduttori della forma di corruzione della politica, questa forma di corruzione della politica che era ciò che la cultura aveva visto come la caratteristica dell'antico regime. L'antico regime era un regime corrotto, no? Cioè, un regime corrotto perché era un regime che falsava i rapporti sociali. Aveva reintrodotto la corruzione nella grande politica europea. E allora un problema di risposta a questo. Ma qui c'è, secondo me, il passaggio fondamentale della prima guerra mondiale, una risposta che non poteva prescindere dal fare i conti con una realtà, che ne dicessero gli intellettuali. Ed era la realtà che, ammessi tutti i soggetti politici, in grado di poter essere ammessi, cioè quelli che erano l'età canonica, diciamo così, alla gestione del politico, poi in qualche modo questi qui si dovevano inquadrare e si dovevano organizzare, si dobbiamo disciplinare. E anche questo è un altro grande tema, che è un tema di veramente di lunghissimo periodo, no? Questo istituto ha fatto delle cose egregie sul problema del disciplinamento sociale in età moderna, oltre che in età contemporanea, perché il disciplinamento sociale è una grande realtà. Quello che noi chiamiamo l'ordine politico è sempre frutto di una forma di organizzazione e di disciplinamento della società. La società non lo produce da sé. Questo disciplinamento come si poteva fare nel momento in cui, dopo un grande fenomeno di massa come è stata la guerra mondiale, si aveva a che fare con persone che erano state tutte in qualche modo cacciate dentro l'ambito del politico? La prima guerra mondiale in tutti i paesi aveva visto questo fenomeno incredibile, che le guerre non si vincono senza unità interna. Voglio fare qualche accenno alla contemporaneità, perché questa è una cosa che si è perso, cioè quando se la guerra verso l'esterno viene presupposta come guerra civile, è una guerra già persa in partenza. Il grande esempio della Germania era lì a dimostrarlo. I generali tedeschi avevano, prima di altri, fatto i loro piani per arrestare i socialdemocratici. In guerra per espellere questo corpo estraneo all'interno, ma non l'avevano poi fatto, e aveva prevalso invece ad opera di quegli stessi intellettuali conservatori la famosa idea che viene espressa come lo spirito del 14, cioè che bisogna vincere uniti. E Weber aveva scritto in questi famosi scritti sulla guerra del 17: la Germania perde perché ciò nonostante non siamo stati capaci di farlo. Abbiamo un paese in cui non c'è questa, possiamo dire, questo schiacciamento, questa omogeneizzazione fra il dato dello sforzo politico militare e il dato dell'omogeneità sociale. Allora, in società che hanno questo problema, che lo hanno in senso grande, bisogna trovare qualche cosa che si ponga come tramite fra il prepolitico e il politico. E questo qualche cosa non poteva che essere il partito, perché era l'unica grande esperienza che stava sul tavolo politico e che in qualche modo era stata teorizzata in questa direzione, diciamo così, dagli stessi liberali più avvertiti. Per esempio, un teorico statunitense che si chiama Robert Lowell, Lawrence Lowell, aveva scritto un librettino nel 1913 in cui diceva: ma insomma, ragazzi, perfino il mercato capitalistico ha capito che ormai per mettere in contatto il venditore e il compratore ci vuole una struttura professionale, perché sennò da soli non ci se la fa più, il mercato diventa troppo grande. E ha inventato il broker, ha inventato il mediatore. E beh, allora perché noi dobbiamo stupirci se nella politica c'è questa forma di brokerage, questa forma di mediazione, cioè se c'è qualcuno che mette in contatto la produzione di idee politiche o di progetti politici con quelli che poi devono in qualche modo sostenerli, che è un'attività professionale, perché bisogna spiegargli le cose in un certo modo, il mercato è diventato, anche il mercato politico è diventato troppo grande, se non si declina in qualche modo questo sviluppo non si riesce a farlo. Ovviamente questa è una visione molto laica, che Lowell stesso tirò indietro durante la guerra, perché poi naturalmente gli era sembrato di, questo supponeva diciamo una realtà anche abbastanza conflittuale, non poteva essere così tecnicamente proposta in un contesto come quello europeo, che era un contesto molto competitivo, è molto competitivo sul piano dell'egemonia politica, e quindi l'unica forma per riproporre questa è diventata la forma che noi conosciamo storicamente come la forma dei fascismi, che è basata sulla assunzione di questo principio, cioè questo principio che è necessaria una struttura politica apposita di mediazione fra il cittadino non educato alla politica e la politica, ma questa forma deve essere garantita come una forma di non rottura dell'unità del politico, e quindi deve essere unica, partito unico, e deve essere espressione della statualità, no? Deve essere qualcosa di pubblico, deve essere qualcosa di omogeneo con lo Stato. Guardate, anche in questo molto spesso ci si straccia le vesti come se si trattasse del più grande tradimento del paese, ma in realtà questa era la riproposizione di quella che era la teoria assolutamente corrente nel liberalismo fino agli anni 60, che vi ho anche ricordato prima. Partiti al di fuori dello Stato non possono essere ammessi. Se voi poi dite che lo Stato deve difendere in assoluto una sua dimensione unitaria, voi dovete dire che questa dimensione unitaria ha come riflesso immediato il partito unico. no? Cioè ha una struttura unica. Questa è una delle ragioni, per esempio, secondo me, che spiegano perché un teorico come Carl Schmitt, che è profondamente impregnato di questo assolutismo liberale, alla fine c'ha qualche cedimento psicologico verso i fascismi, verso il nazismo, no? Poi troppo tardi si accorge che questo non è vero, perché questi andavano in astratto nella direzione che questi teorici avevano prefigurato, no? Che era una, appunto, una specie di garanzia che la democrazia, fra virgolette, non si trasformasse nella demagogia, no? Perché c'era questo elemento del controllo superiore, c'era questo elemento della gerarchizzazione che garantivano il disciplinamento sociale e che però non lo espungevano dall'aspetto politico. Con queste grandi strutture di massa, sempre nella teoria, perché poi sapete, la pratica è tutta un'altra cosa, ma il bello della storia è proprio quello che le teorie tirano da una parte e la pratica dall'altra. Nella teoria queste forme erano forme che dovevano esprimere un coinvolgimento delle persone all'interno dello Stato, non erano forme per espungere dalla politica, erano forme per inglobare nella politica, erano forme per trasformare questi famosi soggetti ineducati in uomini rispettabili, come avrebbe detto la grande teoria britannica tradizionale. Noi sappiamo come è finita questa esperienza, perché appunto, siccome la pratica è un po' diversa dalla teoria, poi si è visto, tutti, Schmitt compreso, hanno visto che cosa voleva dire poi in concreto questa esperienza, come poi questo non fosse servito affatto alla ricostruzione dell'unità nazionale, alla ricostruzione di sistemi capaci di essere migliori di quel famoso costituzionalismo in crisi contro cui tanto avevano detto, come questi sistemi attentassero all'ordine, al disciplinamento internazionale, che è un disciplinamento particolarmente delicato nell'età contemporanea, a cui tutti si sentono legati. Qui c'è un aspetto importante che sul quale direi, mi pare proprio una delle ultimissime frontiere sulle quali si comincia a lavorare, cioè il fatto che l'ordine politico nell'età contemporanea diviene più visivamente, probabilmente lo era anche in altre epoche, ma diviene più immediatamente legato al grande ordine internazionale, e quindi ciò che un sistema politico produce ha dei riflessi di ordine internazionale, e quando l'ordine internazionale viene messo in gioco sono questioni spinose, no? Naturalmente qui basta il riferimento alla guerra nazista per capire che cosa noi vogliamo dire. Allora, all'interno di questo si è visto che questo sistema non funzionava più. Però, e qui vorrei richiamare il punto sul quale si innesta il passaggio all'età attuale, e che è un punto troppo spesso non preso in considerazione. Però il passaggio, diciamo, dal sistema di tipo nazista e fascista a un sistema di stato dei partiti come noi oggi abbiamo in tutti i paesi del mondo, compreso l'Inghilterra, vi ricordo, la signora Thatcher si è dimessa da primo ministro non perché ha perso la fiducia parlamentare, ma perché ha perso la qualità di leader del partito conservatore. Io sono rimasto molto stupito quando ho visto questo comportamento della signora Thatcher, perché mi sarei aspettato di una persona come la signora Thatcher una rottura, che forse era matura nella Costituzione britannica, del vincolo di partito. La signora Thatcher avrebbe potuto dire: mi caccia via il Parlamento, mettetemi in minoranza in Parlamento, se avete il coraggio, no? Dove il gioco sarebbe stato molto più difficile, perché non c'è mica una così piatta corrispondenza fra il gioco parlamentare e il gioco interno al partito. Ma la signora Thatcher non l'ha fatto. La signora Thatcher si è dimessa il giorno dopo aver constatato l'impossibilità di mantenersi una struttura di partito. Quindi anche l'Inghilterra è un sistema di partiti, no? Direi da un certo punto di vista perfino molto più forte e molto più conseguente di quello che è il sistema di partiti che abbiamo in altri stati, o per quanto meno abbiamo noi. Quindi la soluzione a cui si pensava dopo la grande crisi dei fascismi non è affatto una soluzione di sistema politico di partiti, è una soluzione di restaurazione del vecchio ordine liberale. E infatti, se voi prendete le costruzioni di quasi tutti i sistemi, forse con l'eccezione del sistema politico francese, che ha avuto qualche tentennamento in più nella direzione dello Stato dei partiti, sono costruzioni che inizialmente vengono basate su sistemi di tipo diverso. Secondo me, diciamo, l'esperienza più grande, l'esperienza più visibile di questo è nella situazione della Germania. Perché? Perché la Germania è un paese che ha avuto una storia eccezionale da questo punto di vista, cioè ha avuto una ricostruzione imposta dall'esterno, no? E, diciamo così, programmata a tavolino. Voi sapete che gli alleati a lungo hanno studiato come si poteva risolvere la questione tedesca e riportare i tedeschi, diciamo, al minimo a non fare danno, al massimo possibilmente anche riportarli nella comunità civile, così si pensava allora. E hanno lavorato a lungo su questa ipotesi. A parte i primi momenti di follia, riduciamo la Germania a uno stato pastorale, gli togliamo tutte le industrie, lo ridividiamo in 50 stati come era prima del 1815, eccetera, eccetera. Quando comunque poi insomma in qualche modo si pensa che si dovrà andare a una soluzione un po' più realistica, comunque verso i partiti tedeschi non c'era alcuna forma di simpatia e gli alleati inizialmente erano molto restii a concedere l'esercizio di quella che noi chiamiamo la democrazia rappresentativa. I primi che lo fanno sono i sovietici, che non a caso lo fanno per cercare di fregare gli alleati, far vedere che lì c'era libertà e dall'altra parte no, anche perché loro poi potevano manipolare, eccetera. Gli alleati ridanno spazio ai partiti in Germania perché si accorgono che i partiti sono i portatori del sistema democratico tedesco. Cioè, se poi tu vuoi, diciamo così, rieducare questa gente, vuoi ridargli fiducia in loro stesso, vuoi rimetterli sulle loro gambe, devi far leva su un'istituzione. E l'unica istituzione disponibile sono quei partiti che non a caso Hitler ha distrutto e che sono in qualche modo sopravvissuti ad Hitler medesimo. E guardate, lì si vede con totale e palese evidenza quanto questo, cioè questa intuizione, questa verità fosse forte. La Germania si ristruttura e si ristruttura come uno Stato democratico a tutti gli effetti in grazia di questa tradizione di partiti. Certamente epurata, rivista, eccetera, eccetera, ma fondamentalmente in grazia di questa grande tradizione di partiti, che era poi la grande tradizione, da questo punto di vista ininterrotta, che veniva dall'impero fino a quei giorni in cui nel 46-47 cominciano le prime elezioni amministrative e via dicendo. E questa stessa ipotesi. Dico, la Germania è particolarmente significativa in questo perché la Germania, come sapete, non ha avuto, se non in forma minima, un'esperienza di resistenza grande, visibile al regime nazista. Questo ovviamente viene massimizzato in Italia e in Francia, dove invece si era avuta un'esperienza forte, assai visibile, di contrapposizione, di statualità di origine diversa dalla statualità liberale tradizionale, nella azione aperta di resistenza anche armata, quindi onerosa, eccetera, eccetera, che i partiti politici avevano gestito. In Italia, diciamo, senza concorrenti, perché il potere statuale non esisteva più, in Francia con questa grande concorrenza di De Gaulle, che era riuscito a preservare un simulacro di potere statuale e quindi a mantenere aperta questa questione di conflittualità fra chi avesse salvato la statualità francese, che è un tema grande che giocherà poi nell'instaurazione del gollismo. No. In Italia tutto questo non esiste, perché voi sapete, diciamo, il governo regio non ha capacità di produrre una statualità di questo. Però in tutti i paesi la Costituzione che esce dal secondo dopoguerra è una Costituzione di partiti. Una Costituzione di partiti in che senso? È una questione di partiti, non più come partiti di opinione, ma veramente come partiti disciplinatori del consenso sociale. Anche qui si possono fare tanti esempi, cercherò di farne due. Da un lato la costruzione della Democrazia Cristiana Italiana come partito cardine del sistema politico italiano. Certamente in questa, che è una costruzione complessa, hanno giocato due fattori concomitanti e concorrenti. Da un lato l'intuizione di De Gasperi che il sistema politico italiano era costituzionalmente fondato sulla figura del Presidente del Consiglio, no? Sulla posizione centrale che da De Pretis in avanti si era lentamente venuta costruendo per il Presidente del Consiglio, che è una specie di, è la macchina occulta della Costituzione italiana, e De Gasperi aveva intuito questo, aveva intuito che a questo secondo lui si doveva sacrificare tutto, perché il problema fondamentale era occupare quel posto, chi avesse occupato quel posto non sarebbe mai stato sbattuto via, e questo De Gasperi ha avuto ragione, cioè ha avuto un'intuizione a suo modo grande. Ma questa intuizione è stata, diciamo così, coadiuvata in parallelo soltanto fattuale, perché intellettualmente in opposizione, da questo gruppo della sinistra dossettiana, che ha voluto lanciare l'ipotesi che il cattolicesimo, per legittimarsi come forza dominante, avesse bisogno della forma partito più avanzata possibile. E qui questa famosa battuta che definisce Dossetti il leninista cristiano, no? Che è una battuta fino a un certo punto, perché c'è un documento preciso su questo. Quando Dossetti riorganizza questo primo gruppo di intervento, fa un congresso di questa sua organizzazione che si chiama Civitas Humana nel 1946 e fa una relazione sui mali dell'Italia, che è stata pubblicata, una relazione molto interessante, purtroppo sopravvive solo in forma di appunti. Però, diciamo, un buon quarto di questa relazione è fatto per spiegare a questo gruppo di persone come funzionava il Partito Comunista Reggio Emilia e perché il Partito Comunista Reggio Emilia era così forte. E perché era così forte? Era così forte perché, lui fa tutti i conti, le latterie sociali sono del Partito Comunista, quindi i caseifici sono del Partito Comunista, non mi ricordo quali altre cose. Cioè, c'è un insediamento sociale, c'è una capacità di disciplinamento sociale, c'è una capacità di farsi carico della società del Partito Comunista, che è ciò che costruisce la sua egemonia. Il Partito della Democrazia Cristiana, dice Dossetti, non costruirà mai questa egemonia se non riuscirà a farsi carico di questa struttura, se non riuscirà a trasformarsi in questa grande holding, se mi permettete questo termine. E anche questo, perché diciamo così, Dossetti è stato sconfitto nella lotta con De Gasperi, è stata un'idea vincente, perché progressivamente il Partito della Democrazia Cristiana, per tante cose, al di là dell'intuizione di Dossetti, ovviamente per la tradizione sociale del movimento cattolico, eccetera, eccetera, è riuscito a costruirsi in questa holding, unico rivale da questo punto di vista del Partito Comunista, perché come sapete tutti gli altri partiti italiani hanno rapidamente perso questo tipo di contatto con il sociale, perfino i socialisti che non l'hanno mai avuto, se non nella forma di compartecipazione con i comunisti, che però è una cosa poi diciamo marcata all'interno. E questo è un grande esempio di come un sistema politico si sia poi basato su questa nuova struttura in cui il partito si esprime appunto come società di massa, come istituzione che va ben al di là del problema dell'espressione dell'opinione in politica, anzi forse da questo punto di vista perdendo, questo diventando partiti molto permeabili all'idea dell'opinione. L'altro esempio su cui voglio richiamare la vostra attenzione, che secondo me è altrettanto importante, è la vittoria dei laburisti in Inghilterra nel 1945, che anche questo è un fatto a suo modo eclatante. Voi tutti sapete che Churchill era un grande eroe popolare, Churchill era l'uomo che aveva consentito all'Inghilterra di vincere questa sfida storica con la Germania. E Churchill ha giocato questa carta in maniera spregiudicata e durissima nelle elezioni del 1945. Ha fatto dei discorsi selvaggi, c'è un famoso discorso in cui Churchill dice voi votate per i laburisti e poi avrete la Gestapo in Inghilterra, no? Che suscitò naturalmente una polemica infinita sui giornali, eccetera, eccetera. No? E lo fece con molta durezza perché, insomma, alla fine pareva a tutti impossibile che un leader vittorioso di una guerra fosse sconfitto alle elezioni. Ma non si era mai dato. È un'esperienza che non è quasi mai successa nella storia. Eppure, alle elezioni del 1945, come è noto, i laburisti vincono, anzi stravincono. E per anni gli osservatori politici si sono chiesti, ma come mai? Che cosa è successo in questa popolazione? Tanto più che i laburisti erano un partito relativamente scassato, in questo senso, cioè non erano un partito che era stato al potere fino a 5 anni prima, che avesse una grande storia di maggioranza, cioè è un partito che veniva da una storia tragica, da una scissione nel 31 con l'espulsione di McDonald's, eccetera, eccetera. Ciò nonostante, ecco, le ultime interpretazioni che io trovo convincenti insistono su questo fatto. La popolazione ha avuto un problema di governo del dopoguerra, di nuovo, di governo del disciplinamento sociale, e ricordando quanto male il sistema liberale conservatore di Lloyd George e Bonarlo, che hanno governato in coalizione dal 1918 al 1922, aveva governato, diciamo, il post-guerra, dopo la Prima Guerra Mondiale, che è stato un periodo durissimo, un periodo di incertezza sociale, un periodo di restrizioni, eccetera, eccetera. La gente voleva una garanzia rispetto a questo governo del futuro. La gente voleva un partito che esprimesse non, diciamo, una grande politica estera, se mi consentite immagini, come poteva essere l'immagine di Churchill, no, non una grande filosofia sul futuro del mondo. Voleva un partito che garantisse una ricostruzione possibile. E i laburisti avevano avuto questa grande intuizione per il lavoro di una serie di uomini, il più importante dei quali forse questo signore che si chiamava Hugh Dalton, di aprire Un discorso su questo ancora prima della fine della guerra, il manifesto laburista del 1943, se non ricordo male, si intitola Let Us Face the Future, lasciateci guardare in faccia il futuro, lasciateci confrontare con il futuro, e era un programma di ricostruzione postbellica, embrionale, eccetera, eccetera. No? E quindi anche lì il sistema dei partiti vince, il partito laburista, lì era proprio il partito, la quintessenza del sistema del partito, perché era una rottura formale dell'idea che per lungo tempo, diciamo, il costituzionismo britannico aveva fatto circolare, che i partiti legittimati alla rappresentanza dell'opinione pubblica, quindi alla rappresentanza del governo, non potessero essere, come si dice nel linguaggio politico britannico, sectional, cioè non potessero essere partiti che rappresentano solo una fetta della società, come era il Partito Laburista, che era almeno sulla carta un partito di tipo operaio sindacale. No. Ciò nonostante, in questa fase si ha questo tipo di vittoria. E questo è veramente significativo, secondo me, no? Significativo di questa domanda che rimane, che permane, che diciamo così, corre lungo tutta la storia politica europea di strumenti di disciplinamento sociale che non sono e non possono essere strumenti puramente di opinione. Questa è la forza, diciamo, dei partiti moderni. Ovviamente, secondo me, noi oggi siamo di fronte a un problema abbastanza di trapasso, perché abbiamo il dissolversi di due categorie. Cioè, da un lato abbiamo un ispessirsi, benché non sembri, del problema dell'educazione alla politica, perché noi oggi siamo in condizioni peggiori rispetto a quelle di una volta, rispetto all'educazione alla politica. Società che erano meno frammentate di quelle di adesso avevano varie, possiamo dire, varie declinazioni sociali che potevano andare in questa direzione, le chiese, i grandi gruppi professionali, le grandi tradizioni culturali, gli stessi clan familiari, nel senso allargato, le comunità regionali, cioè c'erano delle strutture che in qualche modo riuscivano a fare il trapasso. La frammentazione della società contemporanea ha distrutto queste forme di trapasso, quindi non abbiamo più bisogno di strutture, fra virgolette, di disciplinamento sociale di quanto non ci fosse prima. Dall'altra parte abbiamo una cosa che nessuno degli uomini che hanno inventato questo modo di fare politica avrebbe immaginato, cioè abbiamo abbattuto il problema della trasmissione del pensiero politico, perché il mezzo televisivo rende potenzialmente avvicinabile chiunque e rende potenzialmente disponibile quella platea nazionale che nessuno, da un certo punto di vista, neanche Hitler e Mussolini in quella maniera potevano contare di avere. E quindi ha, diciamo, distrutto il problema della rappresentatività come una specie di scala gerarchica che dal basso sale verso l'alto. Che cosa sarà di questo futuro? Io non so dire, non per modestia, ma per realismo politico, ma come diceva un autore tedesco, Reuter, che ha scritto un librettino sui partiti politici durante la Repubblica di Weimar, ai partiti politici si potrebbe applicare la famosa frase di Schiller: nel tuo petto le stelle hanno scritto il tuo futuro. Bene, anche oggi abbiamo avuto una lezione come quella di Gianrico Rusconi che, come era previsto nel nostro programma, piuttosto che soffermarsi sopra delle scansioni di tipo cronologico, no? E quindi piuttosto che offrire un repertorio di date, di fasi, di incastri in una storia continuistica all'interno, in questo caso del fenomeno politico, ho preferito invece proporre dei concetti, proporre dei problemi, proporre quindi anche tutta una come posso dire, che difficoltà, insomma, di lettura di questo fenomeno che è il partito politico, soprattutto rispetto anche ai problemi di oggi o di domani, perché questo è un po' lo spirito, insomma, di tutta la nostra operazione durante questo seminario, no? Questa serie di seminari, cercare di individuare una serie di elementi costitutivi del nostro modo di stare insieme, di far politica, di costituire comunità politiche organizzate, però appunto modi che sono anche nodi e che sono come tali anche mutevoli, insomma, cioè che ci sono, non ci sono più, possono continuare, devono comunque modificarsi, alcuni si devono sciogliere, altri se ne formano. Questo è un po' il bello della politica, perché io credo che è vero che la politica è una realtà non calata dal cielo, ma una realtà che gli uomini si fanno con le loro mani vivendo, che alcune volte se la fanno bene, alcune volte se la fanno male, a seconda delle circostanze storiche che occorrono, e però che quello che è sempre importante è la responsabilità che si ha di fronte a queste esigenze qui, no? Questo mi pare che sia in fondo la questione. Per il partito politico questo qui diventa particolarmente, secondo me, importante. Io credo che abbia fatto bene Bombeni a sottolineare, a insistere molto sulla distinzione fra 800 e 900, evitando la solita storia dell'800 come appunto incubatrice del 900, eccetera, anche se ho l'impressione che in questa sua distinzione più netta fra 8 e 900 viene fuori un 800 leggermente troppo facile, troppo bello, cioè nell'800 andava tutto bene, nel 900 sono scoppiati i grandi casini, ecco. Io credo che anche nel 800 ce ne fossero mica male, però certo che nel 900 ce ne sono tanti. Quello che mi pare di poter riconoscere è che effettivamente l'Ottocento ha fruito di più di un salto epocale, cioè nell'Ottocento si è messo in pratica e tentato di dar soluzione in modo più immediato a quello che era stato visto come un grande salto, come una grande trasformazione, cioè la rivoluzione, insomma, o comunque l'epoca delle rivoluzioni, dalla metà del Settecento, dall'ultimo quarto del Settecento alla metà dell'Ottocento. Questo qui è stato un nodo rispetto al quale l'Ottocento ha potuto reagire in termini più, direi, come dire, moderni. Il Novecento, effettivamente, secondo me ha un rinculo più lungo, nel senso che forse è venuta meno la sensazione di una grande rivoluzione a cui bisognava dare una risposta, e quindi ci si è attardati, ci si sta attardando di più su soluzioni vecchie senza preoccuparsi di trovarne di nuove. La grande rivoluzione di che noi abbiamo messo al centro della nostra attenzione nel nostro serie di seminari, che è la massa, non è stata in realtà mai percepita come tale, cioè la massa stessa che è protagonista di questa rivoluzione in fondo non è stata capace di riconoscersi come soggetto rivoluzionario, adesso sto facendo usando le parole, ma, e quindi di elaborare una teorica adeguata. Questo mi sembra che sia la stigmata, insomma, principale del nostro secolo, e infatti io credo che adesso, poi, da un anno a questa parte, lo possiamo apertamente dire anche per l'altra metà della mela, perché per la parte fascista si poteva dire liberamente da tanto tempo che la soluzione di massa incistata dentro nel partito fascista, no? E indubbiamente era stata una delle cose più tragiche che si siano verificate nella storia. Adesso possiamo dire anche da un qualche paio d'anni a questa parte che anche la soluzione che invece ha richiamato molto interesse in tutto il mondo, in molti di noi, eccetera, eccetera, invece della... perché il partito, insomma, il partito come è stato... cioè non c'è stata, secondo me, nessuna teorica relativa al partito politico di massa più brillante e comunque più fortunata di quella di Lenin. Questo bisogna pur dirlo, insomma. Allora, adesso, oggi noi, di fronte al fallimento integrale, almeno allo stato attuale delle cose, di questa esperienza, abbiamo una nuova conferma del fatto che il partito non è stato forse la soluzione giusta per la impostazione dei problemi politici di massa che il XX secolo ci ha presentato. O no? Non lo so. Ecco, queste sono domande grosse. Secondo me, secondo me noi oggi ci troviamo con la complicazione degli ultimi, cioè dei più recenti avvenimenti tecnologici, che sono anche questi relativamente recenti, perché coprono a malapena gli ultimi 20 anni della nostra della nostra vita è l'ultimo quarto di questo secolo, più o meno, e che sono queste straordinarie facilitazioni che si sono introdotte, che si stanno introducendo nella comunicazione a distanza, nella comunicazione di massa, in termini sia televisivi che telecomunicativi, insomma, e che anche questo qui però è un elemento che costituisce una variabile estremamente importante, sia per le cose che diceva Pombeni poco fa, ma sia anche per le cose, per cose ulteriori, cioè per il fatto che oggi questi strumenti teoricamente sarebbero in grado di consentire, sembrano poter essere in grado di consentire una gestione, di nuovo, una gestione integrata di gruppi differenziati, cioè la massa che per tutto il XX secolo ci si è presentata come qualcosa di unitario, di compatto, e che quindi abbisognava di un partito, nel senso o fascista o comunista o leninista, questa massa qui oggi di fronte alle nuove tecniche può tornare forse a presentarsi come un sistema di comunità o di gruppi differenziati che potrebbero trovare dal punto di vista tecnologico una gestione nuova in termini integrati. Sono tutti problemi che ho espresso in maniera molto confusa, sotto la pressione anche della bella relazione che ha fatto Paolo Pombeni, che ringrazio, e voi non tenetene conto se credete, ma adesso facciamo un po' di discussione, possiamo farla sia che facendo domande, come posso dire, richieste di precisazione di tipo più analitico su alcuni aspetti della storia dei partiti, e sia invece svolgendo considerazioni di carattere più generale, come quelle che sto cercando di fare io, oppure al limite anche arrivando a problemi, diciamo così, dell'oggi, che sono qui, davanti agli occhi di tutti. Prego. Sempre un po' che qualcuno si sacrifichi e venga qui a fare qualche domanda. Cose difficili, ma non troppo, insomma, cioè, sì, no, poi se qualcuno è interessato ad entrare nei dettagli di questo o quell'altro aspetto della storia concreta, non ho nessuna difficoltà, certo, a farlo, ovviamente, certo, è che, cioè, preferisco entrare su dettagli che interessano a qualcuno, certo, altrimenti bisogna stare qui 10 giorni. No, certo, e appunto, qui io credo che ci siano tante cose che si possono chiedere, una delle cose che si possono chiedere, per esempio, è quella di cercare di capire in che modo, per esempio, insomma, oggi noi assistiamo a una, e poi non solo da oggi, ma certo oggi assistiamo ad uno sfaldamento progressivo delle unità nazionali, no? Cioè delle soluzioni, degli ambiti nazionali come soluzioni adeguate dei problemi politici che presentano società avanzate, no? Ecco, rispetto a questo dato qui, per esempio, come si pone il problema dei partiti che invece nella loro storia hanno sempre avuto una connotazione tipo nazionale? Cioè, se c'è una cosa ricorrente in tutti i partiti di tutta Europa è che c'è sempre alla fine l'aggettivo italiano, tedesco, francese, inglese, eccetera, no? Che li connota. Ora, questo sfaldamento delle unità nazionali come referente dei partiti è uno sfaldamento, guardate, che si vede benissimo in Italia, va in entrambe le direzioni, cioè uno sfaldamento verso l'esterno, perché naturalmente gli spazi diventano europei, gli spazi di gioco politico diventano europei, ma è anche uno sfaldamento all'interno, no? E le leghe ne sono una dimostrazione evidente. Allora, questo è un altro dato estremamente importante. Non so, questo potrebbe essere una domanda per aprire la strada. Sì, certo, questa è una domanda fondamentale, ovviamente, perché ci ricollega a quello che tu dicevi prima, cioè il problema della molto maggiore possibilità che offrono i moderni mezzi di comunicazione di gestire componenti pluralistiche. È chiaro che l'aggettivo nazionale posto dietro i partiti, secondo me, non è stato semplicemente un fatto, come possiamo dire, occasionale, è stato il riflesso dell'idea che la nazione fosse l'ambito privilegiato del politico. Cioè, e questa è la ragione per cui io cerco sempre di parlare di partiti, di sistemi di partito, piuttosto che non parlare di famiglie politiche. Voi sapete che esisteva una volta la tradizione che la storia dei partiti faceva dicendo, allora diciamo, la famiglia liberale, allora, cioè, i liberali italiani, francesi, inglesi, la famiglia, cioè, come se esistessero veramente queste strutture transnazionali in cui un socialista tedesco e un socialista italiano sono più simili di quanto non siano un liberale italiano e un socialista italiano, no? Invece sono convinto del contrario. I sistemi nazionali, fin tanto che lo Stato-Nazione ha avuto un significato, sono stati molto importanti. I sistemi di partito si sono sviluppati all'interno di questa dialettica, anche se invece ovviamente le valenze ideologiche, che erano già transnazionali, non abbiamo inventato noi in questo senso la transnazionalità, hanno mantenuto invece aspetti più generali, per cui si può parlare di liberalismo europeo, di socialismo europeo, eccetera, eccetera. Oggi la situazione si presenta molto complessa perché da un lato la nazione ha perso di significato come ambito di organizzazione del politico, perché ovviamente l'economia non è più un'economia di tipo nazionale, la mobilità non è più una mobilità di tipo nazionale, la cultura non è più una cultura di tipo nazionale. Attenzione, c'è ancora questo spartiacque non piccolo della lingua, secondo me, che noi non possiamo totalmente saltare, però noi non possiamo dire che l'Italia è fatta da una teoria, da una cultura nazionale, c'è una cultura italiana, no? Cioè, ci sono dei libri scritti in italiano, che a volte non sono di italiani perché sono tradotti giustamente dall'estero, a volte sono scritti da italiani, ma che se fossero tradotti in un'altra lingua non sfigurerebbero in altre realtà. In fondo è quell'esperienza che chiunque di voi sia andato all'estero avrà fatto. Non so, io ho una bambina piccola, e ogni volta che vado da qualche parte, cioè, porto un regalino, e poi vai nel grande magazzino e vedi che ci sono esattamente le stesse cose, sono a Trento, a Bologna, a Napoli, eccetera. Perché il mercato è un mercato generale, perché le cose della Lego, i Tartos, tutte queste cose si trovano a Londra, a Oxford, a Düsseldorf, a Parigi, dunque, voi andiate, c'è questo mercato internazionale. Questo è un fenomeno nuovo, no? Cioè, io non sono Matusalemme, ma quando quei pochi viaggi all'estero che faceva mio padre, tutte le volte riusciva a venire con una cosa che in Italia non ci trovava, no? Perché i mercati erano fatti così, no? E quindi, ecco, la dissoluzione di questo ovviamente pone una esperienza che la gente ha fatto e che pone fortemente in crisi questa identità del partito nazionale come partito di. Nello stesso tempo il complicarsi della vita ha reso molto più complicato vivere nelle comunità locali, perché noi siamo, diciamo, ancora sotto questa vecchia idea che una legge generale dello Stato riesce a risolvere. Poi chiunque affronta il problema più banale di tutti i giorni, cioè il problema del traffico, vede che nessuna legge dello Stato riuscirà mai a risolvere il problema del traffico, che il problema del traffico non è semplicemente un problema di come se si passa col rosso o col verde, se sulle strisce pedonali si ferma o non si ferma, è un problema complicatissimo, fatto di abitudini, di sistemi, di disponibilità al sacrificio delle comunità, eccetera, eccetera, e che quindi deve essere gestito a livello di comunità più piccole in cui si abbia questo. Per cui questa tendenza alla disintegrazione dei partiti, alla rinascita del regionalismo, che non è affatto un fenomeno solamente italiano, ma che su aspetti diversi è un fenomeno ampiamente europeo, è una sfida che si pone sul terreno di tutti i partiti politici. Non c'è soltanto la proposta delle leghe, non so se lo sapete, ma per esempio il Partito Socialista, cioè Craxi, sta insistendo perché il Partito Socialista Italiano cambi lo statuto e si dia uno statuto basato su federazioni regionali. La Democrazia Cristiana, anni fa, almeno una serie di componenti della Democrazia Cristiana, hanno fatto questa stessa proposta per la Democrazia Cristiana, che venisse fatta come federazione, cioè che rimanesse una Democrazia Cristiana nazionale, ma come federazione di partiti regionali. Quindi, per dire, questa non è solo il problema delle leghe, è un problema che percorre tutti i partiti e che per certi aspetti è paradossalmente un ritorno alla vecchia forma di origine del partito nazionale, che non è un partito ad adesione individuale, ma che è un partito federazione di gruppi. Così erano i partiti socialisti iniziali, così erano i partiti liberali iniziali, così è stato il partito laburista fino al 1918 e per certi aspetti lo è ancora adesso, anche se lì, diciamo, l'adesione di tipo organizzato è più un'adesione di tipo sindacale che un'adesione di tipo regionale. Quindi, indubbiamente questa sfida c'è. Vedo meno al momento attuale la sfida transnazionale perché gli ambiti in cui si può esercitare questo sono ancora relativamente modesti. Il Parlamento europeo è ancora una struttura non dotata di sufficiente potere per incentivare veramente una politica internazionale, e diciamo, il blocco linguistico è ancora, per le generazioni che sono al potere adesso, un blocco forte. Inevitabilmente il problema della lingua è un problema discriminante, non si potranno avere partiti transnazionali finché, se non a livello di massa, a livello di elite, si arriverà a forme di comunicazione rapide e possibili in una lingua comune. Questo è un vincolo che in qualche modo ci rilancia a una delle cose serie che l'Ottocento aveva detto, cioè la lingua come fondamento dell'unità nazionale, eccetera, eccetera, non è un problema che si erano inventati i romantici, è un problema reale che esiste, che è sul tappeto. Non c'è dubbio. Prego. Se viene qui è meglio. Sì, così lo sentono anche gli altri. Beh, io volevo chiedere una cosa. Perché viene dal meridione molto spesso il problema della partitocrazia? È uno dei problemi più sentiti. Ho l'impressione che molto spesso, o meglio, che la forma partito, specialmente dico nella realtà meridionale, stia diventando semplicemente una sorta di canale di accesso, più ancora che alla gestione della cosa pubblica, alla gestione delle finanze pubbliche. Semplicemente, intanto, vabbè, a parte delle finanze pubbliche, ma sotto forma non... Più vicino. Sì, più ancora che, voglio dire, più ancora che sotto forma di, appunto, di gestione della cosa pubblica, quindi delle finanze in funzione anche della cosa pubblica, sotto forma proprio di patrimonio privato di poche famiglie che hanno la possibilità di accedere sotto la, come dire, la protezione dell'ombrello ufficiale del partito, della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, almeno c'è più neppure questo tipo di distinzione a livello ideologico, no? Per cui si vedono le stesse persone che molto spesso cambiano partito semplicemente sulla scia di motivazioni per niente politiche, ma semplicemente di spartizione del potere. Quindi è altra cosa che mi chiedo: se nell'evoluzione che c'è stata della forma partito, della forma del partito politico, non si, soprattutto nella democratizzazione della politica, un po' il problema credo fosse anche di Tocqueville, no? Della massificazione anche della democrazia, quindi dell'abbassamento, direi, del livello del personale politico, non si stia assistendo, soprattutto a livello locale, molto spesso proprio a una, più che a una degenerazione, vorrei dire, sì, proprio forse a questo tipo di abbassamento del livello del personale politico. Si è arrivati al punto, io parlo della mia esperienza nel mio paese, di trovare come consiglieri comunali, non che questo sia una cosa, per carità, voglio dire, necessariamente negativa, che si può dire il 90% delle persone, molto spesso ha malapena la terza media, molto spesso non capisce niente di amministrazione pubblica e vanno a fare gli assessori e così via. Voglio dire, questa degenerazione è una tappa nel fenomeno, come dire, dell'evoluzione del sistema dei partiti, o è semplicemente una degenerazione? Sì, questa è una questione complessa, è una delle questioni, credo, centrali dell'evoluzione del sistema politico attuale. Secondo me, se si vuole analizzare spregiudicatamente questa questione, bisogna dividere due terreni. Uno è che il terreno, diciamo, della struttura del sistema della distribuzione e della gestione delle risorse pubbliche, cioè del sistema del potere. E due è la questione del partito. Cosa voglio dire? Voglio dire che non sempre quello che noi chiamiamo partitocrazia è realmente, diciamo, colpa della forma partito, quanto è piuttosto un adeguarsi della forma partito a sistemi di distribuzione del potere. Io temo che molte volte noi in Italia, quando facciamo questo grande strapparsi le vesti sulla questione della partitocrazia, dimentichiamo che la forma partito si è adeguata a un modo di gestione del potere che preesisteva alla forma partito e che era semplicemente, se volete, meno visibile e forse meno stridente, perché era esercitato da forze che non avevano una così palese vocazione teorica alla gestione della cosa pubblica. Voglio spiegarmi, la questione meridionale, quando veniva gestita con i prefetti di Giolitti o queste cose qui, era gestita nello stesso modo cui adesso la gestiscono i partiti, no? Semplicemente che allora il potere era esercitato attraverso la struttura dello Stato, adesso la struttura dello Stato è stata deprivata della gestione del potere, perché noi all'interno di una, diciamo, rivoluzione democratica abbiamo ritenuto che questo non fosse opportuno, e questo ha portato alla gestione di una forma nuova di potere, con dei problemi abbastanza grossi, perché mentre il controllo sullo Stato era possibile attraverso certi meccanismi abbastanza facili, cioè alla fine poi un prefetto ci poteva andare via, eccetera, eccetera, i partiti a presunta rappresentanza popolare sono molto più difficili da mandare via di quello che non fossero i prefetti, no? E noi abbiamo questa struttura e questo problema. Recentemente uno studioso di diritto pubblico bolognese che si chiama Marco Cammelli ha scritto un articolo provocatorio che è stato ripreso anche dalla stampa, dicendo che bisognerebbe tornare al sistema delle regioni a statuto speciale, ma rovesciando il problema, non dando la statuto speciale al Trentino o alla Valle d'Aosta, che non ne hanno alcun bisogno, sono regioni come tutte le altre, ma costruendo delle regioni a statuto speciale al sud, a cui non sia consentito l'esercizio della democrazia piena come è consentito al nord, perché non è, questa idea, diciamo, universalistica della gestione della cosa pubblica sta bloccando lo sviluppo politico, perché da un lato si concedono le libertà che mancano, diciamo così, di supporto sociale, per cui queste vengono mal usate, dall'altro lato ad altre realtà non si danno queste libertà, perché si dice, sì, capirai, non so, se nelle USL tutti possono fare quello che vogliono senza controllo dall'esterno, figurati cosa fanno al sud e poi lo fanno anche al nord, perché non è che ci sia delle grandi, che sempre questa differenza sia così abissale, no? E quindi c'è un sistema bloccato, e questo è un grande problema che viene, diciamo così, erroneamente secondo me presentato come un problema di partitocrazia, ma che è un problema di degrado del sistema politico. Voglio fare un esempio semplice, no? Noi diciamo la partitocrazia nella nomina degli enti pubblici. Ecco, anche qui, se vogliamo essere franchi, tanto qualcuno deve nominare le persone, no? Non è che il presidente dell'IRI si può estrarre a sorte fra i cittadini. Allora, il problema è se chi nomina, chiunque esso sia, è una persona, diciamo, che sente su di sé il peso di un controllo politico. Allora, questa persona, chiunque esso sia, ci si può aspettare che cerchi di fare una cosa decente. Se non sente questo peso esterno, chiunque esso sia, farà un'azione di tipo nepotistico. Non è che se lo nomina la Confindustria nomina una persona per bene, e se lo nominano i socialisti o i democristiani o i comunisti o chi volete voi nominano un farabutto. Gli uni e gli altri possono esprimere una classe di governo alta o una classe di governo bassa a seconda che esista un sistema che li controlla, un sistema esterno che li controlla e una cultura che impone un'etica della responsabilità. Purtroppo il nostro problema grave non è la partitocrazia, ma è la distruzione, secondo me, dell'etica della responsabilità nella cosa pubblica. Nessuno si sente più vincolato a questo, a nessuna parte faccia caso, quindi noi possiamo mettere i partiti, possiamo mettere qualsiasi altra forma voi vogliate immaginare, e non andiamo... L'altro problema dell'abbassamento del livello del personale politico credo sia uno dei problemi più grossi che noi abbiamo sul tappeto adesso. Perché? E qui di nuovo c'è un grande dibattito. A Bologna recentemente si è aperta una grossa querelle sul problema delle nomine che spettano al comune in aziende dell'intesa urbana, sapete, queste cose qui che hanno in comune, hanno 2 o 3 aziendine, l'acqua e queste robe qua. E è stata fatta una grande battaglia di principio, i comunisti sono schierati molto con questo, dicendo che bisogna fare un modo di concorrenza aperta, basta con questo discorso, i partiti nominano che vogliono loro. E il risultato è stato un risultato modesto, si dice perché i partiti hanno posto delle zeppe, in parte è vero, ma in parte è anche non vero, perché questi sono posti, per esempio, assai mal pagati. Il presidente dell'azienda per l'intesa urbana di Bologna, che come potete immaginare è un'azienda abbastanza cospicua, abbastanza grossa, prende 1.200.000 lire al mese. No? Allora, ovviamente è chiaro che nessuno vuole spendere la sua vita per 1.200.000 lire al mese per dirigere l'intesa urbana, se non sia persona che vuole fare carriera politica o che vuole cumulare questo con altri prestigi, eccetera. Faccio questo esempio per dire che questo si moltiplica. Noi abbiamo un sistema di democrazia diffusa in cui non abbiamo più quadri a sufficienza, cioè la società non è più in grado di esprimere un numero di quadri sufficienti per riempire questi posti. Do un altro esempio banale, prendo l'esempio di Bologna perché non c'è problema di sottosviluppo. I consigli di quartiere, io per ragione banale, quando mia figlia faceva l'asilo e abbiamo avuto una querela col quartiere perché voleva mandarci via, non ci voleva dare certe cose, sono andato 3-4 volte ai consigli del quartiere da cui dipendeva questo asilo e sono rimasto scioccato. Sono delle, non vorrei offendere nessuno, sono delle riunioni, diciamo, di un altissimo livello politico, perché naturalmente finiscono lì. quelli o giovani alle prime armi che vogliono fare il primo gradino per fare carriera politica, o personaggi in disarmo delle forze politiche che vengono mandate lì, o pensionati che non sanno come passare il tempo, si fanno eleggere. Perché questa domanda di... non è poi vero che i cittadini muoiono dalla voglia di perdere ore e ore, perché sapete, non è che sono lavori semplici, si va lì una volta, due volte l'anno, ci dicono delle grandi cose, poi si va a casa, lì sono ore e ore che si perdono, eccetera. E manca la possibilità di estrarre da un corpo sociale un corpo di dirigenti sufficientemente ampio, sufficientemente elevato. Questo è uno dei grandi problemi della democrazia contemporanea, che soffre fortemente di questo problema di difficoltà di accesso al ruolo dirigente, perché il ruolo dirigente comporta costi molto forti. Ma questo, voglio dire, in tutte le strutture è così, no? Naturalmente, per esempio, nei grandi atenei, dove rivestire cariche accademiche significa distruggersi intellettualmente, perché naturalmente se voi avete da gestire una facoltà che ha 10.000 iscritti, diventate matti perché dovete trovare le aule, la mensa, questo e quell'altro, eccetera, eccetera, si abbassa il tono delle persone che fanno quel mestiere lì, perché bisogna trovare uno che decida di investire 3, 6, 10 anni della sua vita a fare semplicemente il gestore dell'ordinaria amministrazione, no? Ecco. Questo per esempio è uno, secondo me, dei grandi problemi della democrazia contemporanea, cioè può una democrazia così sopravvivere a una struttura di questo tipo? Ovviamente la risposta che c'era una volta era un'altra: il rappresentante non gestisce. Noi siamo partiti da una situazione in cui il rappresentante non gestiva, in cui il preside non doveva occuparsi di trovare gli scopini per i gabinetti, comprare la carta igienica, c'era una struttura burocratica che pensava a questo, il preside guardava semplicemente che non eccedessero e non comprassero solo carta igienica e niente libri o cose del genere, no? Questa struttura burocratica è stata totalmente distrutta, è la stessa cosa nei grandi comuni, nelle grandi agenzie, nelle grandi aziende. Perché sono pagati male queste persone, no? Non tanto ovviamente perché si voglia gettare su di loro una croce, ma perché si immaginava una volta che loro era appunto una funzione, come si dice, rappresentativa, cioè una specie di garanzia che l'elettorato poneva lì, che una burocrazia in grado di fare il suo mestiere lo facesse proprio per bene. Noi abbiamo invece scontato un meccanismo terribile in cui è venuto meno la parte burocratica, che come voi sapete è sempre più demotivata, sempre più sempre meno preparata, con grandi problemi, eccetera, eccetera. Questi problemi di gestione sono passati direttamente in mano al politico, che si è trovato spiazzato in questa struttura, e la società attuale non è in grado di estrarre un numero di politici sufficiente, questo nuovo politico burocrate, questo nuovo politico esperto, sufficiente da se stesso, perché la società non ha, diciamo, le risorse materiali, secondo me, per investire in questa direzione. Questo, io non so dire come risponderà la società a questo, però mi pare che questo sia uno dei grandi, indubbiamente dei grandi, uno dei grandi problemi, uno dei grandi problemi del futuro, che si complica anche perché nessuno di noi vive più come particolarmente gratificante il servizio pubblico, l'etica del servizio pubblico. Adesso io non, ha ragione Schiera, non dobbiamo fare l'Ottocento, per carità, il secolo d'oro, perché è un secolo pieno di robe, molte cose si dicevano, però non c'è dubbio che, mentre fino a un certo periodo l'etica del servizio pubblico è stata una moneta corrente in qualche modo, è stato un qualche cosa di cui uno, diciamo, sì, o almeno una parte non piccolissima della società si gloriava, ecco, questa per esempio è diventata una moneta fuori corso. Oggi l'etica del servizio pubblico non esiste più. Se uno ascrive a suo merito di aver fatto un servizio pubblico, in genere viene definito, come dicono i milanesi, un pirla. Ci sono domande ancora da rivolgere al professor Pombeni? Ecco, allora, in mancanza, ci accontentiamo così, abbiamo fatto già abbastanza tardi. Ringraziamo molto Paolo Pombeni per questo incontro e ci rivediamo dopo Natale, gennaio. Gli auguri a tutti e grazie. Grazie.